c'è un motivo tecnico o generale di questo calcio postmoderno che mette un po' alla frusta questi numeri 10 un po' troppo classici, forse? Ma guarda, io credo che bisognerebbe analizzare singolarmente ogni caso, perché ognuno dei giocatori che hai citato è arrivato al mondiale con una situazione differente, quindi chi ha avuto problemi fisici, ricordiamo che Kakà non ha fatto una grande stagione al Real, soprattutto per questa pubalgia o pseudopubalgia che sembra che lo assilli da parecchio tempo. Altri hanno avuto invece, magari sono arrivati alla fine di una stagione difficile, lunga, impegnativa, quindi bisogna un po' parlare così, secondo me, singolarmente. Qualcuno ha avuto anche problemi dal punto di vista tecnico-tattico, per esempio Messi, secondo me, non è stato messo nelle condizioni per far vedere tutta la sua classe, al di là magari dallo stato più o meno buono di forma. Dal punto di vista specifico e dei singoli, c'è molto rumore attorno a Ronaldinho. In queste ore è previsto l'arrivo del fratello per parlare con il Milan, dal Brasile dicono per cercare di portare immediatamente Digno al Flamengo, dall'Italia qualcuno dice invece solo per provare a trattare il rinnovo. Ti sembra che dal punto di vista tecnico, tattico e anche dinamico, visto le ultime foto che sono state esposte di Ronaldinho in vacanza mentre gioca a football in Brasile, sia un giocatore per il quale Allegri si strapperebbe i capelli per la sua permanenza, oppure credi che il nuovo tecnico del Milan, tutto sommato, abbia in mente anche una squadra senza il brasiliano? Probabilmente lui sta pensando anche ad una squadra con delle alternative, però prima di rinunciare a un giocatore di classe come Ronaldinho, che in molte occasioni può fare la differenza, io credo che sia Allegri che il Milan ci penseranno diverse volte.